sei come vorrei che fossi io, amore mio, senza paure. Fai sempre di me quello che vuoi, a modo mio, senza rancore. Se cado giù, sei mia, risalgo e tu sei mia. Lascia che sia come vorrei ogni mio istante. Sei come vorrei che fossi io, amore mio, senza paure. Fai sempre di me quello che vuoi, a modo mio, senza rancore. Se cado giù, sei mia, risalgo e tu sei mia. Voglio di più e sei mia, non chiedo di più e sei ancora mia. Lascia che sia come vorrei ogni mio istante. Cerco di più e sei mia, non chiedo di più e sei ancora mia. Lascia che sia come vorrei ogni mio istante, ogni mio istante. Ogni mio istante. Sai come vorrei che fossi io, amore mio.